Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. In tempi di crisi c'è chi rinuncia alle vacanze, chi le accorcia, chi invece proprio non può farne a meno, ma c'è anche chi per risparmiare si mette alla ricerca di soluzioni alternative e originali. Ad esempio, avete mai pensato di mettere a disposizione gratuitamente la vostra casa mentre siete in ferie? Un'altra persona potrebbe visitare la vostra città e voi naturalmente sareste a vostra volta ospitati a costo zero in un posto nuovo. E poi ci sono gli spostamenti. Condividere un viaggio in auto può essere la soluzione giusta per spendere meno in carburante. Sappiamo quanto questa voce sia pesante quest'estate e anche per fare un viaggio in compagnia. Oggi a Salva Danaio parliamo di queste tendenze, ci confrontiamo con alcuni operatori di queste nuove fette di mercato e rispondiamo anche alle vostre curiosità e chissà forse anche alle vostre perplessità in tema di vacanze alternative. Ma intanto vi chiediamo: avete mai approfittato di uno di questi servizi? Siete stati soddisfatti? Avete in programma di usufruirne? Nelle prossime settimane noi stamattina ne parleremo con Cristina Pagetti, responsabile ufficio stampa e assistenza clienti di scambiocasa.com. Sentiamo se è già collegata telefonicamente con noi. Buongiorno Pagetti, bentornata a Salva Danaio naturalmente. Grazie di avermi invitato ancora. Anche perché ogni anno ci piace esplorare questo mondo che tra l'altro è in enorme crescita nel nostro paese, anche se è stato mutuato, come sempre accade per molti altri fenomeni economici, dagli Stati Uniti, e quindi sentiremo un po' qual è anche stato l'approccio della famiglia italiana al metodo, diciamo, dello scambio casa. E ce lo racconterà anche Annalisa Rossi Pugliatti, responsabile Italia di homelink.it. buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno Cristina. Ah, ecco, quindi già abbiamo fatto anche una carramba. E poi sentiremo anche, a proposito invece della modalità di condivisione dell'auto per andare in vacanza, abbiamo già parlato altre volte nella nostra trasmissione del car sharing, della condivisione dell'auto per raggiungere per esempio ogni giorno il posto di lavoro. C'è una società che invece ha fatto un passo in più e ha costituito una comunità dove si possono ritrovare automobilisti che invece vogliono raggiungere la località di vacanza e quindi condividere l'auto con questo obiettivo. Il sito si chiama blablacar.it e noi sentiremo tra poco il country manager per l'Italia. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta, oppure se volete ci potete scrivere al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, o come sempre potete andare anche ad incuriosirvi sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Io mi aspetto dei vostri commenti oggi, delle vostre riflessioni, mi aspetto anche qualcuno che abbia fatto questa esperienza. Raccontateci se vi è piaciuta o meno, quali sono i vantaggi, gli aspetti positivi, o se ci sono anche degli aspetti negativi, quindi magari diamo anche dei suggerimenti ai nostri interlocutori di questa mattina, appunto per eventualmente migliorare anche i servizi che rendono. Prima di partire con il nostro argomento, lo sapete bene, abbiamo l'appuntamento con la borsa. Oggi il quadro in Europa, come spesso accade, è contrastato, non c'è moltissimo movimento, ma c'è un'indecisione anche da parte dei listini del vecchio continente, che stamattina hanno guardato alla fitta lista di dati macro economici che sono arrivati dalla Cina. Poi è arrivato il bollettino mensile della Banca Centrale Europea, che ha tagliato ulteriormente le stime di crescita del PIL nell'Eurozona nel 2012 e nel 2013, e tra l'altro secondo l'istituto peggiorerà anche la disoccupazione. La BCE ha puntato l'indice sull'effetto contagio della crisi che ha duramente colpito Italia e Spagna. Gli investitori continuano dunque, anche in virtù di quanto ha detto il bollettino appunto della BCE, ad attendere gli interventi della Banca Centrale Europea, come promesso da Draghi, e vedremo se a settembre si concretizzeranno questi nuovi programmi di riacquisto di titoli di Stato dei paesi in difficoltà. Lo spread è più tranquillo però rispetto al mercato azionario, che comunque tuttavia è tranquillo perché gli indici non stanno registrando performance clamorose. Lo spread stamattina è scivolato fino a 437 punti base. Milano perde lo 0,27%, sul FTSE MIB i migliori titoli, un bel gruppone di titoli bancari: Mediobanca più 3,5%, Banco Popolare più 1,66%, Intesa San Paolo più 1,42%, Popolare dell'Emilia Romagna +1,19%, Mediaset +1,3%. Andiamo a vedere invece i titoli in calo. A2A, dopo aver corso molto negli ultimi giorni, oggi frena del 2%. Enel Green Power -2%, TOTS ieri +10%, oggi -2%, inevitabilmente. Telecom -1,55%. Euro su dollaro ancora in arretramento a 1,23,18. Per la borsa è tutto, andiamo invece adesso al tema di oggi, parliamo di vacanze alternative, scambio casa e auto condivisa. L'organizzazione di una vacanza non va sempre d'accordo con il bilancio familiare e personale, in particolare in periodi come questo. C'è però chi, per non rinunciare ad un viaggetto o un po' di relax, riesce a trovare soluzioni originali e alternative, e a dimostrarlo è il sempre maggiore successo raccolto da servizi che permettono di progettare le proprie ferie riducendo i costi. Il segreto? Come spesso accade in tempi di crisi, sembra essere la condivisione delle risorse. È sicuramente il caso dei servizi di scambio casa, diventati famosi grazie al film L'amore non va in vacanza. Si mette a disposizione la propria abitazione per un periodo e si trova l'ospitalità di un'altra persona iscritta alla medesima rete, visitando posti nuovi e vivendoli come uno del posto, conoscendo luoghi e culture diverse dalla propria e accollandosi soltanto l'onere del viaggio. Anche sugli spostamenti però si può risparmiare, ottimizzando i costi di un viaggio in auto che tante volte viene intrapreso con diversi posti liberi nella vettura. Apposite piattaforme permettono di condividere i tragitti in automobile, individuando itinerari comuni con la possibilità di entrare in contatto con altri viaggiatori. Un autostop sicuro e organizzato, insomma, che permette di risparmiare su manutenzione e carburante, ma anche di conoscere nuovi compagni di viaggio. Vi racconto subito allora l'esperienza che ha fatto il nostro ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666. Negli ultimi 10 anni ho creato una rete di amicizie virtuali internazionali grazie alle classiche chat. Negli ultimi 10 anni sono stato in giro per il mondo ospitato da questi amici e viceversa io stesso li ho ospitati nella mia casa. Tanti vantaggi, per quanto mi riguarda nessun disagio. Devo dire che le è andata anche bene, evidentemente appunto questo colloquio costante sulle chat, poi bisogna anche vedere quali ha scelto e come ha fatto anche ad individuare questi amici casuali, e appunto dicevo è andata bene, però ci sono anche delle organizzazioni appunto più strutturate per permettere questa tipologia di scambio. Allora Cristina Pagetti, io riparto subito da lei per farci raccontare ancora una volta l'esperienza di scambiocasa.com, che è il referente per l'Italia di homeexchange.com, che è il leader mondiale nello scambio di casa. Intanto in Italia in quanti vi cercano, insomma, questa comunità? Quanti viaggiatori raccoglie oggi? Ma in Italia secondo me siamo solo agli inizi, infatti abbiamo 2.000 soci di 43.000 che ne abbiamo nel mondo. 2.000 su 43.000? Sì. E come mai ancora siamo un pochino in ritardo? Perché c'è ancora un po' di scetticismo per quello che riguarda l'italiano, a cui piace in ogni caso la comodità dell'albergo piuttosto che avventurarsi anche nella conoscenza di un'altra famiglia. Qual è secondo lei ancora il limite che frena un po' la famiglia italiana nella scelta di questa tipologia di vacanza? Ma il limite è quello che hai detto tu, problemi che uno si fa a mettersi in casa una persona che pensa essere uno sconosciuto, quando poi uno sconosciuto non è, perché comunque ci si parla, ci si scrive, ci si telefona, diciamo che si diventa quasi amici prima di organizzare lo scambio. No, c'è anche però da segnalare che voi di Scambio Casa, così come homelink.it, fate anche un monitoraggio, un controllo delle persone che si iscrivono ai vostri siti, perché non è che poi le famiglie si fanno incontrare e si lasciano sole. Io credo che, immagino, un pochino una referenza la chiediate, no? Alle persone che si rivolgono a voi e che sono interessate a questa tipologia di vacanza. Certo, la cosa più importante che chiediamo è di sottoscrivere un accordo di scambio e poi di lasciare un feedback, cioè un resoconto che dice come è andato lo scambio, che serve un po' per creare una sorta di reputazione a coloro che scambiano casa, così come succede nella maggior parte dei siti dove si affittano case, dove si comprano oggetti. Allora andiamo invece a sentire Annalisa Rossi Pugliatti, homelink.it. Anche lei trova un po' gli stessi limiti ancora da parte degli italiani, oppure in ogni caso un pochino di sguardo rivolto in avanti c'è stato negli ultimi anni, e soprattutto quali sono magari i viaggiatori tipici che vi cercano, nuclei familiari oppure ancora magari ragazzi che hanno un po' più gli orizzonti mentali più larghi per potersi avventurare anche in un'esperienza di questo tipo? Sì, dunque, noi intanto volevo specificare una cosa: Homelink è nata nel 53 e effettivamente in Italia ancora non ha preso piede completamente. Noi una piccola selezione la facciamo, cioè io personalmente quando qualcuno si iscrive telefono personalmente, gli chiedo, mi rendo disponibile e sono sempre disponibile 24 ore al giorno. Quindi mi chiamano anche a ore strane per chiedermi un sacco di consigli, eccetera. Noi non abbiamo aumentato molto perché io sono molto, diciamo in termine buono, sono selettiva, nel senso che se vedo che qualcuno si iscrive solo per il risparmio, cerco di dissuaderlo e di fargli pensare che non è un modo solo per risparmiare. Io mi concentro molto sull'aspetto culturale perché secondo me è l'ignoranza che rovina il mondo, per cui quello a cui tengo particolarmente è che le persone che si iscrivono da me sappiano esattamente che è un tipo di vacanza che richiede cultura, apertura mentale, la gente vuole conoscersi, vuole togliersi dalla mente tutti questi luoghi comuni, per cui è un viaggio meraviglioso. Io ho superato i 140 scambi, sono 26 anni che faccio scambio a casa con la mia residenza, avevo una seconda casa ma scambio con la residenza e non ho mai pensato di fare altre vacanze, anche se a volte mi capita di andare in albergo eccetera eccetera, ma penso che questo sia assolutamente il modo migliore per muoversi. Senta, per conoscere profondamente i paesi. Prima di tutto mi deve togliere una curiosità, perché è una delle cose che questa mattina ha tirato di più la mia attenzione. Lei dirà, insomma, se sono fermata lì, ma così. Allora, ho visto che voi ogni anno tenete un meeting in una regione italiana per far conoscere appunto questa modalità di fare vacanza. Quest'anno siete andati a Palermo, il prossimo anno, siccome è il decimo incontro, e sarete nelle Marche? Ecco, siccome la mia regione, voglio sapere. Marche, a Cingoli, che bello. Bellissima. Scusi, sì. L'ho interrotta, non ho sentito cosa mi ha detto. No, nel senso che siccome sono marchigiana, ero curiosa di saperlo. Ecco. A Cingoli. Nella badia della Rovere. Ogni anno facciamo questo meeting, arrivano 100-120 persone da tutta Europa e lo faccio non tanto per promuovere, che chiaramente mi interessa molto, ma soprattutto perché le persone si conoscano personalmente, perché c'è una grandissima corrispondenza tra di me, tra di loro, eccetera, via mail, così diamo un volto a tutte le email. Certamente. Le persone si conoscono ed è una cosa splendida, c'è un rapporto di amicizia, di ovviamente. Quello dello scambio casa, appunto, quello che diceva lei è molto importante, non è una modalità per andare a risparmio, certo, anche per quello naturalmente, perché se deve partire una famiglia di 5 persone è chiaro che fermarsi un mese in un albergo ha un costo, poter avere la disponibilità di un'intera abitazione ne ha totalmente un altro, però appunto alla base di una modalità di fare vacanza come questa c'è uno spirito preciso, una filosofia di vita che non ha nulla a che fare con come dire, tenere in considerazione solo l'aspetto commerciale. E volevo ritornare. Chi si iscrive solo per risparmiare dura un anno, al massimo due. Poi dopo sparisce. Sparisce chi invece comprende, certo. Non capisce come funziona, da solo automaticamente proprio si elimina. Va bene, poi ci deve raccontare anche in tutti questi anni di esperienza se c'è qualche, come dire, vacanza che comunque anche a lei non è andata bene, Pugliatti, perché forse le sarà anche successo e magari da lì avrà individuato anche le criticità di una esperienza di questo tipo. Volevo ritornare per un attimo, prima di andare a blablacar.it, a Cristina Pagetti per chiedere, ma la vacanza con lo scambio case, una vacanza vera e propria, nel senso che per esempio se una persona volesse fare solamente un weekend può trovare anche soluzioni di questo tipo, quindi magari Italia su Italia con uno scambio casa che duri dal venerdì alla domenica? Esattamente, questa è la nuova tendenza degli italiani, che si sono resi conto che possono sfruttare al massimo le loro prime, anche seconde case, per conoscere meglio il nostro bel paese. Questo l'ho fatto anch'io spesso, ad esempio weekend lunghi, le vacanze di Natale, magari solo qualche giorno, sono stata a Firenze, a Roma, ho girato e mi è piaciuto tanto. Allora, io ricordo agli ascoltatori che possono intervenire all'800240024, oppure ci potete scrivere i vostri messaggi, anzi scriveteci se siete in vacanza, magari in spiaggia, ci state ascoltando appunto con le cuffie, forse è più facile per voi intervenire in questo modo, e potete farlo appunto al 349 338-6666, ci potete scrivere anche sul nostro profilo Facebook, salvadanaio-radio24. Cosa voglio fare? Volevo sentire Francesco dalla provincia di Imperia, che è il nostro primo ascoltatore di oggi, perché con la sua domanda mi mette su un piatto d'argento il prossimo ospite, nella sostanza. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti. Niente, volevo dire che nel lontano 1986 vivevo in Olanda e c'era un ufficio che si chiamava Lift Autostop International, qualcosa del genere, dove praticamente esponevano una bacheca con scritto Tizio parte va a Zurigo a tre posti in macchina, Coso va a Milano, c'era una tassa fissa da pagare all'agenzia, decidevano anche loro il prezzo per chilometraggio e niente. E lei ne usufruiva, Francesco? Sì, per i suoi viaggi? Tre o quattro volte. Quindi cosa voleva arrivare a dirci? Stavo pensando a cosa voleva arrivare a dirci, che in Italia per chi si avventura adesso su un'esperienza di questo tipo non si sta inventando nulla? Non lo so, io qua non, che sappia, io non ne ho sentite uffici del genere. E le dico che non capitava solo il fricchettone con i due cavalli, la signora di una certa età, a me una mi ha portato fino davanti a casa. Incredibile. Ed era molto regolare perché ti facevano conoscere il giorno prima della partenza. Grazie, grazie per la sua testimonianza. Francesco, allora sentiamo che cosa ne pensa. Olivier Bremer, country manager di blablacar.it, buongiorno e benvenuto nella nostra trasmissione. Ci sente? Buongiorno a voi. Eccoci qua. Allora, intanto poi devo spiegare perché il vostro sito, la vostra società si chiama blablacar.it, perché è la cosa più divertente di tutta la vostra iniziativa. Tutto il resto è un insieme di aspetti molto utili. La denominazione invece poi vi racconto appunto da che cosa origina. Ma ha sentito cosa ascoltava, cosa ci raccontava Francesco? Noi tante volte parliamo di queste modalità, no, di condivisione dell'auto che adesso si stanno sperimentando sempre di più nel nostro paese, soprattutto per raggiungere i posti di lavoro, c'è il car sharing in ogni forma e sembra quasi che stiamo parlando di qualcosa di completamente nuovo, poi anche come ci spiegavamo prima le sue colleghe per altri aspetti, appunto in realtà stiamo parlando di un qualcosa che in molti paesi del mondo invece è già straconosciuto e molto consolidato. Bremer, che ne pensa? Certo. Sì, sì, ma l'esempio che raccontava Francesco è uno di tanti, cioè già in Germania negli anni 50 c'erano questi uffici dove appunto si mettevano in contatto persone che viaggiavano in auto, volevano viaggiare low cost verso la stessa destinazione. Quindi poi a un certo punto è stato naturale per noi, no, come BlaBlaCar, di trasferire questa cosa su internet. Quindi mentre una volta appunto c'era bisogno di recarsi personalmente a questi uffici che spesso erano vicino alle stazioni, adesso si fa con due clic sul sito è subito possibile appunto vedere se ci sono altre persone che percorrono la stessa tratta. Certo, voi siete nati nel 2006 a Parigi, giusto? Esatto, sì. Noi siamo un network europeo, quindi siamo attivi in diversi paesi europei. Da quanto siete in Italia? Ma noi in Italia siamo partiti come bossoinauto.it nel 2010, poi abbiamo cambiato nome, siamo passati a blablacar.it qualche mese fa, quindi è molto recente il cambio. Benissimo. Allora, diciamo che la vostra uscita recente, pubblica, si è riferita naturalmente anche alle vacanze e a voi avete notato come, nonostante la crisi, alberghi e i luoghi appunto di ricevimento delle persone in questo periodo, i posti, abbiano registrato un aumento di prezzi. A dispetto appunto della situazione di crisi e della condizione di crisi delle famiglie, per cui avete voluto proprio puntare sulla possibilità di risparmiare quantomeno nel viaggio, no? E quindi che cosa avete promosso in questo frangente? Ma noi praticamente suggeriamo, l'idea è molto semplice, noi suggeriamo a quelli che si recano in vacanza in macchina e hanno due o tre posti liberi o anche uno solo, di offrire questi posti ad altre persone con cui condividere il viaggio, quindi è un modo per risparmiare, è un modo socievole per incontrare nuove persone, da qui anche, no, il nome BlaBlaCar, perché sì ce lo racconti lei, perché infatti, perché è davvero divertente. Perché non è come il treno, l'aereo, dove di solito magari vi capitano vicini simpatici, però di solito non si interagisce più di tanto. Invece in macchina è chiaro che, essendo in uno spazio così ristretto, è ovvio che si chiede, no, si scambiano idee, opinioni, ma, o anche semplicemente due chiacchiere così. E quindi chi si iscrive al vostro sito deve specificare il suo grado di loquacità, scegliendo tra bla, bla bla e bla bla bla, da qui il nome di BlaBlaCar, fantastico. L'operazione di marketing più originale non la potevate trovare. Io sono sicura che devo mettere un bla bla bla per chi mi raccoglie a bordo. Mi interessa molto, ma veramente il cottage è disponibile solo per lo scambio casa. Lo scambio casa, e che cos'è? Ci scambiamo casa, macchina, tutto. Io non l'ho mai fatto prima, ma dei miei amici sì. Tu dove sei? Ti prego, dimmi un posto lontano. Los Angeles! Non ci sono mai stata, ma ho sempre desiderato andarci. A proposito, io sono Iris. Sono molto normale. Maniaca dell'ordine, sana. Non fumo. Single. Odio la mia orribile vita. Io sono Amanda. Sola fallita. Allora non vado oltre perché sicuramente le romanticone come me avranno riconosciuto questo film, che è L'amore non va in vacanza, con Kate Winslet, Cameron Diaz, uno strepitoso Jude Law, qua lo dico perché bisogna dirlo, ed è sicuramente il film che poi ha dato il modo anche di conoscere il metodo dello scambio casa per poter andare in vacanza. Cristina Paggetti di scambiocasa.com, e così anche voi lo raccontate sul vostro sito, no? Perché effettivamente c'è stata una grande attenzione proprio dopo la circolazione di questo film, no? sul fenomeno dello scambio casa. Sì, certo, perché si vedono due ragazze che scambiandosi casa trovano l'amore, che è un po' il sogno di... Ecco, infatti, poi magari se fosse Jude Law saremmo tutte quante anche molto contente. Comunque lì, insomma, a prescindere dall'evoluzione della storia delle due ragazze in ognuna delle due città, dal cottage in Gran Bretagna appunto a Los Angeles, ci sono appunto, come dire, anche dal film si vedono gli aspetti fondamentali, no? Di cui si deve tenere, che si devono tenere in considerazione. Mi riferisco per esempio al fatto che ognuna delle due interlocutrici, nel momento in cui si conoscono, chiaramente si devono un po' raccontare per capire quali sono le abitudini, quindi deve anche scoccare un po' una scintilla tra le due persone che poi si scambieranno l'abitazione. Certo, deve esserci una certa affinità tra chi scambia casa, questo lo si capisce subito quando si comincia a scrivere, magari poi ci si telefona. Se c'è feeling si scambia casa. Ecco, però diciamo che il primo approccio è quello con voi. Mi dice che tipo di selezione fa dei suoi utenti, i Paggetti, su Scambio Casa? Allora, noi andiamo a verificare innanzitutto che i dati che gli utenti inseriscano nel sito siano veritieri. E poi consigliamo di sottoscrivere l'accordo, di essere chiari sin dall'inizio, onesti nel descrivere la casa. Avete bisogno anche di fotografie dell'abitazione, voi le pubblicate? Sì, sì, certo. Ogni socio ha una sua scheda personale corredata dalle informazioni relative alla casa, ai dintorni, la famiglia, quante persone ci possono essere ospitate nella casa, quante sono le persone che vogliono invece essere ospitate nell'altra casa, e poi anche delle foto che devono essere il più chiaro possibile di com'è la casa. Certamente. Allora, volevo sentire Annalisa Pugliatti, Rossi Pugliatti, che cosa ne pensa di questa osservazione che ha fatto l'ascoltatore, che è assolutamente condivisibile, no? Dice, lo scambio casa è una bella idea, ma se abiti a Stuffione, che abbiamo scoperto si trova in provincia di Modena, non ci vuole venire nessuno. A parte che non è vero, perché magari io ho visto anche un po' alcuni dei vostri annunci, ho visto le offerte last minute di scambio casa, ci sono delle famiglie appunto che, eccolo qua, no, la frazione di Stuffione appartiene al comune di Ravarino in provincia di Modena, eccolo qua, quindi è anche una frazione. Però magari qualcuno vuole avere solamente un punto di riferimento in Italia per poi muoversi, quindi magari non è detto che una località piuttosto che un'altra vada bene lo stesso. Pugliatti. E allora io in questo frattempo ho cercato alcuni indirizzi. Una abita a Tavagnacco, una abita a Massaccia, una abita a Creazzo, una a Parabito o Parabita e una a Torbole Casaglia, che non ho la più pallida idea dove sia, mi pare che sia in provincia di Brescia. Quello che io dico quando mi fanno queste domande è: noi abbiamo l'Italia intorno. In qualsiasi momento uno faccia cadere una matita in una sulla carta dell'Italia, nel giro di 10 minuti, 10 chilometri c'è di tutto e di più, non c'è assolutamente nessun problema. Io abito ad Oderzo, che è molto bella ma che non la conosce nessuno, sono 25 chilometri da Venezia. Certo. Ci sono persone di Villorba, di Treviso, che nessuno sa dove sia, che hanno fatto 7 scambi l'anno scorso con l'Australia. L'Italia non ha assolutamente nessun problema di scambiare. Sì, basta soltanto avere la mentalità un po' aperta, anche perché per gli stranieri Venezia è attorno alla Toscana. Ah, cioè, sì, infatti non hanno assolutamente l'idea, ovvio. Ma anche pensiamo alle distanze americane, no? Qualche volta si pensa vado in America e magari vado a New York, a Washington, ma c'è una distanza enorme, ma il principio può essere lo stesso. Una famiglia può venire a Bologna e poi chiaramente raggiungere tutto il resto d'Italia, quindi non è assolutamente fondamentale. Volevo ritornare ad Olivier Bremer per blablacar.it per chiedergli. Allora, io sono anconetana, ammettendo di volermi iscrivere sul vostro sito, perché adesso siccome domenica vado in vacanza e torno dalla mia famiglia, se volessi ospitare una persona che vuole condividere l'auto con me, secondo lei quanto andremo a risparmiare entrambi? Bisogna fare, cioè, in sostanza il costo, come si quantifica il risparmio? Dobbiamo prendere a bordo una persona che poi condivida con noi l'autostrada, il costo del carburante eccetera, e che cos'altro? Ma noi, per semplificare, semplicemente suggeriamo un prezzo che è più o meno intorno ai 5 centesimi a chilometro, quindi ogni 100 chilometri 5 euro a persona. Mm. Quindi questo è un po' un prezzo che comprende sia la benzina sia l'eventuale pedaggio autostradale, e quindi caricando 3 persone si riescono praticamente a coprire quasi completamente le spese del viaggio. Ho capito. Senta, siccome poi lo racconteremo per scambiocasa.com e homelink.it, per registrarsi sul sito e fruire di questi servizi bisogna pagare una quota o semestrale o annuale. Per iscriversi sul sito di blablacar.it bisogna pure versare un canone periodico? No, è un sito completamente gratuito, quindi si visita il sito, ci si registra e si può subito offrire un passaggio oppure trovare un passaggio tra 1 milione di posti in auto disponibili in Europa. Avete avuto molto traffico di utenti in vista di questa vacanza che per molte famiglie è l'insegna del risparmio, Bremer? Sì, abbiamo avuto praticamente, rispetto all'anno scorso, siamo più che triplicati, e già rispetto a un mese e mezzo fa siamo più che raddoppiati, quindi ci sono veramente tantissime offerte di passaggio, soprattutto sulle lunghe distanze, quindi per esempio da Milano verso il sud Italia, quindi sia il versante tirrenico che quello adriatico, ma anche da Roma verso il sud, quindi tanti partono magari da Roma verso Certamente. La Calabria, la Puglia. Senta, mi tolga una curiosità, quanti, avendo indicato di essere molto bla bla bla, sono stati rifiutati dal titolare dell'auto e non lo volevano a bordo? Questo non glielo so dire, perché lei non ha visibilità di queste scelte. Però secondo me viaggiare con un bla bla bla può essere anche molto interessante, no? Perché si sentono tante storie, magari soprattutto se si viaggia, si va in vacanza con qualcuno che è del posto. Anzi, qualche volta andare in vacanza già un po' prima, no? Esatto, infatti. E poi qualche volta si scioglie anche un po' il ghiaccio, perché questi viaggi sono anche delle esperienze un po' personali, qualche volta particolari, a cui io non avrebbe mai pensato di fare. Invece qualche volta magari, ecco, l'essere un po' chiacchieroni appunto scioglie il ghiaccio. Allora, tra l'altro, Bremer, c'è una domanda interessante di Marco da Cesena che ci chiede: per spostamenti business, come si può avere una ricevuta dei costi sostenuti in car sharing? Sì, per il momento non è possibile, però lo stiamo sperimentando già in Francia, che appunto si paga online e quindi è possibile avere una ricevuta. Per il momento in Italia non funziona così, ma si paga direttamente al conducente quando si arriva a destinazione. E io saluto invece Chris da Bergamo che mi scrive: buongiorno, sono il vicino di casa di Jude Law, se vuole ci possiamo scambiare la casa per le vacanze, ho sempre sognato vedere Ancona, mi chiami Chris. E vabbè, magari poi così valuto un po' la sua proposta imperdibile. Allora, vorrei sentire Enzo da Treviso, che anche lui si considera un po' uno storico dello scambio casa. Buongiorno Enzo, ci racconti un po' le sue esperienze, quali sono state, e ci racconti anche se ha avuto qualche disavventura, perché non è possibile che funzioni sempre tutto alla perfezione. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, in particolare alla signora Annalisa, che conosco personalmente. Bene, ottimo. Io credo appunto di essere uno dei più vecchi, sia per età che per un'esperienza, scambiatori, e devo dire ho superato i 40 scambi. Pur avendo avuto un intervallo di una quindicina d'anni, perché viaggiavo molto, scambiavo molto quando avevo i figli fino ai 17-18 anni, poi loro chiaramente preferivano andare da soli e ho interrotto e ho ripreso adesso che sono in pensione. E questo lo vorrei sottolineare, cioè per ogni periodo della vita ci può essere una motivazione diversa. Certo. Ad esempio la comodità di avere a disposizione non una camera d'albergo, per quanto bella, ma una casa, quando si hanno figli è fondamentale avere il conforto, no? Una casa confortevole. Esatto. Certo. Per farle un esempio, io un anno ero in Inghilterra e prima l'uno poi l'altro dei figli hanno preso gli orecchioni, no? Se fossi stato in una camera in albergo sarebbe stato un disastro assoluto. Certo. Invece avere avuto a disposizione una casa ci ha permesso di goderci le vacanze, ovviamente limitando il periodo perché alternativamente mio o di mia moglie. Certo, Enzo, disavventure e quindi magari qualche suggerimento anche pratico agli ascoltatori che non hanno mai fatto un'esperienza di questo tipo, ma magari questa mattina sono solleticati dall'idea dopo averci ascoltato. Di disavventure vere e proprie non ne ho avuto, l'unica che mi ricordi, esperienza un po' singolare, è stata 3-4 anni fa con un signore americano, una coppia americana di New York, i quali venuti ospiti da me, io c'ho una casa in montagna qui nel Veneto, e dopo 2-3 giorni mi hanno contattato dicendomi che anziché stare le previste 2 settimane se ne sarebbero andati subito perché il villaggio in cui ho la casa ed è il villaggio più importante dal punto di vista turistico di montagna in italiano, a loro giudizio. Ce lo può anche dire Treviso, che località è, mi scusi? Cortina. Quindi non andava bene Cortina, non era sufficientemente sofisticata per loro? Perché c'erano pochi negozi, loro non facevano sci, erano venuti d'inverno, non facevano sci, non facevano sport, non facevano gite nei paesi attorno e così via, capisce? C'erano pochi negozi, la Guardia di Finanza recentemente l'ha pensata diversamente, non è un problema. Appunto. E poi gli stessi signori, quando io a mia volta mi sono recata negli Stati Uniti, avevano mandato il giorno in cui ero partito e quindi io non avevo potuto leggere una mail dicendo di non andare a casa loro prima delle 11 o mezzogiorno che fosse. Io non l'avevo ricevuto e come d'accordo mi sono presentato alle 9 del mattino. La sera precedente in albergo, mi sono presentato alle 9, questi hanno aperto la porta e praticamente li hanno cacciato via per quel momento dicendomi di ripassare nel primo pomeriggio e quindi ho dovuto... Quindi diciamo proprio un'avventura spiacevole, un po' maleducati. All'andata e al ritorno. Io Enzo la ringrazio, ma voglio sentire Annalisa Rossi Pugliatti e poi anche la Pagetti per capire quando ci si trova di fronte a membri della comunità che hanno questo comportamento, che cosa si fa? Li si bandisce oppure banalmente gli altri utenti che li hanno incontrati possono descrivere quella che è stata l'esperienza e quindi in qualche maniera un po' penalizzare la reputazione? Cosa succede? Rossi Pugliatti. Ecco, noi abbiamo tra di noi abbiamo un contatto continuo e costante tra noi colleghi, sono 32 colleghi. Prima ci scambiamo tra di noi questi messaggi, ci diamo dei consigli e se c'è un reclamo grave vengono immediatamente cancellati. Se quando riceviamo la valutazione, perché alla fine di ogni scambio mandano una valutazione, se la valutazione è negativa avvertiamo le persone di stare attenti. 95%, 97% riguarda la pulizia. Se abbiamo un'ulteriore valutazione negativa, questi vengono cancellati dal circuito. Certo. Pagetti, volevo chiedere anche a lei un commento rispetto a quello che è capitato ad Enzo, no? Questa famiglia di americani arriva a Cortina, sembra un po' essere anche arrivata questa coppia come se non avesse mai sentito parlare del nostro paese. Adesso è anche giusto che sia così, perché non è che uno debba avere una conoscenza al 100% delle località, però non stiamo parlando di Casal Pusterlengo. Quindi come lo giudica anche un comportamento di questo genere lei sulla sua comunità, insomma, come li avrebbe gestiti? Allora, da noi dopo lo scambio si rilascia un feedback. Al secondo feedback negativo non gli consentiamo più di essere nuovamente soci di scambio casa e li eliminiamo. Certo, quindi insomma c'è un'azione per forza. I feedback negativi servono appunto a questo. È chiaro che episodi di questo genere sono difficili da prevenire. La cosa importante però è e sottoscrivere l'accordo di scambio, perché nell'accordo di scambio si specifica tutto: quando io arriverò a casa tua, a che ora arriverò, in che modo tu mi farai avere le chiavi, mi lasci dei numeri di emergenza in caso di problemi alla casa. A me è capitato, si è rotto uno scaldabagno, ho chiamato l'amica di riferimento e me l'hanno aggiustato subito. Certamente. Ecco, queste piccole cose si risolvono in con modo un po' di buon veloce. Senso, ecco, anche qualche volta. Come? Con un po' di buon senso, dico, sì, anche no, qualche certo. volta. È chiaro che bisogna, come diceva anche prima Annalisa, bisogna essere anche un po' flessibili e di mente aperta. È chiaro che se io arrivo in una casa e non trovo la cucina perfettamente pulita, mi metto i guanti e la pulisco, mi è capitato una volta in un paese del nord Europa. E poi però ho fatto una bellissima vacanza in questo posto. Vabbè, poi ecco, il concetto della pulizia secondo le nostre mamme è di un determinato tipo, secondo le famiglie del nord Europa è di tutt'altro, quindi sono anche molto virtuosi dal punto di vista finanziario, su altri aspetti lasciano un po' a desiderare. Tra l'altro, con il caso di Enzo da Treviso speriamo anche di aver accontentato Sergio da Lecce, che ci scriveva quali sono le situazioni più incresciose che questo sistema deve affrontare malgrado tutti gli accorgimenti di controllo che si pongono in essere. Quindi Sergio, speriamo di averle dato una panoramica sufficiente. Diciamo che forse la sorpresa più grande può essere quella proprio della maleducazione dell'interlocutore, della persona con cui ci si interfaccia, perché effettivamente l'esperienza americana da Enzo ha avuto un po' dell'incredibile. Allora, ritorniamo all'auto con Maria Luisa da Firenze all'800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno, volevo fare una domanda a questo signore del bla bla, che è veramente un nome molto molto simpatico e accattivante. Però io mi chiedevo, la persona che guida la macchina ha come dire un controllo, nel senso che non è una persona che beve, non è una persona che fuma, non è una persona che si droga, cioè voglio dire, uno deve fare, pensare di fare un viaggio con una persona che sai che guida bene, che dà delle garanzie, naturalmente, che Maria Luisa. Garanzie, allora è... Bremer, io non credo che voi chiediate il certificato medico della persona che mette a disposizione la sua auto e la sua guida, però ha ragione Maria Luisa, qui bisogna forse essere in grado di offrire delle garanzie in più, no? Se oltre ad essere passeggero si è anche titolare dell'auto e guidatore. Noi innanzitutto abbiamo un sistema di feedback molto efficace, per cui se io condivido l'auto con qualcuno, io posso rilasciare a tutti i miei passeggeri un commento e loro possono rilasciare un commento a me. Quindi questo per me, sia come conducente sia come passeggero, è un incentivo a rispettare i limiti, a rispettare tutte le regole, a essere puntuale, essere socievole, e quindi è un modo anche per addirittura aumentare la sicurezza stradale. Certo. E quindi insomma, se poi... io so che potrei rischiare un feedback negativo con quindi la conseguenza di non poter più usare il sito e rinunciare per sempre al risparmio che questo comporta, beh, magari sto un po' attento prima di comportarmi in modo contrario alle regole. A voi è capitato di dover bandire qualcuno dalla vostra comunità per comportamento scorretto, magari per essersi messo alla guida, che ne so, si era scordato la patente, un po' leggero in questo senso, aveva bevuto qualcosa prima di partire? Non è mai successo. Ah. Le uniche lamentele sono state dei ritardi, magari che ogni tanto si verificano. Però tendenzialmente, anzi, cioè di solito chi condivide l'auto guida in modo molto più responsabile rispetto agli altri, chi guida solo. Infatti, allora bene, sì. Bene così. Allora, ci sono degli ascoltatori che ci chiedono, insomma, come vedete voi anche come modalità per farvi conoscere i social network, ormai il tema è anche sempre quello, però vorrei sentire invece per quello che riguarda lo scambio casa o homelink.it, molti ascoltatori ci chiedono di nuovo di dare l'indirizzo web, adesso lo daremo, ma Pagetti, scambio casa, allora per poter fruire di questi servizi, per poter avere un monitoraggio di tutte le offerta, mettendo che io il prossimo anno mi possa concedere due bei mesi di ferie per gli Stati Uniti, andare negli Stati Uniti, allora cosa devo fare? Mi iscrivo già quest'anno? Quanto pago? Posso cominciare già da ora a monitorare l'offerta per i prossimi mesi? Beh, direi di sì. L'iscrizione costa per 3 mesi 35 euro, per un anno intero 95 euro. Ecco, ma cosa vuol dire? Che magari, ammettendo che io per esempio mi iscriva solo per 3 mesi e trovo adesso la mia casa delle vacanze, il fatto che vada in vacanza l'anno prossimo implica che devo rimanere iscritta tutto l'anno con voi? Sì, sarebbe meglio, anche perché in questo modo si è coperti da tutta l'assistenza. In caso di problemi noi siamo sempre presenti, lo siamo comunque, ma è una garanzia se anche l'altra controparte è ancora iscritta al sito. Ho capito. Per quello che riguarda Homelink, invece, Annalisa Rossi Pugliati, il costo per aderire alla vostra comunità? Rossi Pugliati, adesso sì, Matteo, eccoci qua. L'iscrizione, ovviamente. Ce lo puoi ripetere dall'inizio, Annalisa, perché Matteo era distratto e non ci ha alzato subito il microfono. Sì, allora dicevo che il costo dell'iscrizione vale 12 mesi dal momento dell'iscrizione, sono 120 euro all'anno. Poi c'è un 10 euro facoltativi di un fondo di garanzia nel caso in cui ci siano dei danni, dei piccoli danni, non so, qualcuno che non paga la multa o stupidaggini, ecco. Così, che vale fino a un rimborso di 1.000 euro. Ecco, ho letto che lei per esempio ha dovuto attingere a questo fondo solo per una volta, forse da quando esiste, perché l'iscritto non aveva il coraggio di chiedere il rimborso a una famiglia. Ecco, è successo? Devo dire che chi fa questo tipo di vacanza è una persona estremamente corretta, educata e gentile, se lo fa con lo spirito giusto, per cui l'ho rimborsato due volte. E per una stupidaggine, avevano tracimato il latte e rovinato un fornelletto, e la signora italiana mi ha detto: mi disturba, sono stati talmente carini e talmente gentili che mi disturba chiedere il rimborso, e allora li ho rimborsati io, 60 euro, quindi due volte in due anni. E vorrei spezzare una lancia sul discorso dei paesi del nord, non è vero, anche quello è un luogo comune, è un nostro pregiudizio. È assolutamente per quello che io dico, scambiate. Cosa devo dire? Una mia amica è andata per lavoro a Londra in questi giorni, non le posso dire, una casa bellissima, ma mi ha dato delle foto all'esterno, dentro si metterebbe le mani nei capelli. Sì, ma è successo anche a me, ma mi è successo anche alla Rochelle, mi è successo in Irlanda. Cioè, succede, gli sporchi sono sporchi dappertutto, i puliti sono puliti dappertutto. Io ho una cugina che è inglese, che è asettica, ho il collega irlandese che sono asettici, cioè ci sono i puliti, gli sporchi un po' dappertutto. Okay. Anche facendo questo lavoro, poi io mi sono resa conto, lavorando con tutta l'Italia, non c'è differenza di regione a regione, questo mi ha reso felicissima, in nessun tipo di approccio, né come correttezza, né come serietà, né come impegno, né come pulizia, da nessuna parte. Io adoro l'Italia per questo motivo qua, perché ho visto che siamo tutti pressappoco uguali. Ottimo. Cristina Pagetti, torno da lei perché molti ascoltatori intanto ci chiedono se siete tutti quanti su Facebook, e figuriamoci se non sono interessati anche alle vostre modalità di presenza sul social network. Pagetti, Scambio Casa c'è? Certo, ci siamo anche su Twitter, abbiamo anche diversi blog che sono gestiti da nostri soci che hanno deciso di raccontare dei loro scambi. Certo, Rossi Pugliati, Homelink c'è? Sì, io sono con homelink.it, sono su Facebook, sono su Twitter, inserisco praticamente tutti i giorni delle novità, e poi al sabato ai miei iscritti e non iscritti o chi si è iscritto alla newsletter mando una newsletter con delle informazioni, con dei racconti, faccio una piccola lezioncina di inglese, con delle proposte, quindi mi tengo sempre molto molto molto presente con tutti gli iscritti con i quali ho un rapporto stupendo, spesso vengono a trovarmi, io faccio moltissimi scambi in Italia, l'anno scorso ho scambiato con 5 famiglie della Sicilia, alcuni sono venuti, alcuni verranno. Io mi muovo molto anche all'interno dell'Italia, faccio parecchi scambi all'estero, quest'anno sono stata in Islanda, poi sono stata a Palermo per il meeting, adesso partirò per la Turchia. Ah, naturalmente per il meeting a Palermo, dove c'è stata appunto la riunione annuale di Homelink, e lei è andata in casa di qualcun altro? No, in questo caso no. Io perché dovevo dirigere, però moltissimi degli iscritti che sono venuti. Ma qualche iscritto di Palermo poteva anche ospitare la presidente nazionale, no? Come? No, stavo scherzando, dico magari. No, l'anno scorso a Lari, per esempio, ero ospite da un iscritto. Ma quest'anno, siccome dovevo organizzare il tutto e non c'erano molti iscritti in Sicilia, allora ho preferito che gli iscritti siciliani ospitassero altri iscritti. Io mi sono pagata l'albergo. Ma molti erano ospitati. Quando ho fatto il meeting a Treviso tre anni fa, praticamente quasi tutti i partecipanti, erano 120 persone, quasi tutti hanno trovato ospitalità nella zona, magari a Padova, magari un po' più lontano, quasi tutti, perché io cerco di fare in modo proprio che siano ospitati, così vengono al meeting, si conoscono e anche approfittano dello scambio. Pensi che quest'anno a Palermo pensavo che non venisse nessuno, sono partiti da tutta Italia, da Londra, poi dalla Provenza, dalla Germania, dall'Austria, È stato veramente una cosa esplosiva. Benissimo. Allora, c'è un ascoltatore che mi segnala, Claudio, oltre a farci complimenti per la puntata, anche questa organizzazione che io non conosco, che c'è da 60 anni, che si chiama Bona e Voluntatis Group. La conoscete, Paggetti? No, io conoscevo un altro servizio che si chiama Serva a Porte Aperte, ma che è diverso. È diverso, vabbè, magari allora approfondiremo per un'altra puntata anche queste organizzazioni diverse da quelle di cui parliamo questa mattina. Un'ultima riflessione con blablacar.it, Olivier Bremer, iniziative per l'autunno, dopo l'estate? Ma per l'autunno chiaramente si torna al lavoro, quindi l'idea è quella di cercare di convincere più pendolari possibili a condividere i propri viaggi casa lavoro o magari per chi fa l'agente di commercio. Ecco, anche perché non l'abbiamo detto e con questo messaggio concludo, oltre al risparmio della tasca c'è anche una attenzione all'ambiente non indifferente, viaggiano un po' meno macchine, quindi facciamo respirare magari anche un po' di più le nostre città e i paesi dove viviamo. Grazie a Cristina Paggetti, Annalisa Rossi Pugliatti, Olivier Bremer, Salva Danaio torna domani. Da Deborah Rosciani a tutti, buona giornata.